molto buono, Carlo. Ragazzi, sì, parlare. Non ho capito perché sul mio telegiornatore devo sentire che sono le vostre. Quello dell'altro, no? Perché tu sei abituata, gli altri no. Siamo anche in disabito. Che giorno è oggi? Oggi è 4. Ma già partito? Benvenuti. Occhio, rompe l'uscita con qualcosa di strano. Perché qui non c'è l'inglese. Veramente a mezzogiorno sei là. Mi sono sorpresa, madonna. Hai un omonimo. Ah, perché mi sì. Abbiamo studiato per i linguisti. Non ho fatto l'esame in oro a dicembre con noi del rettorato e non può fare nemmeno questo, fa tutto a giugno, tutto quello che noi stavamo facendo. Ti credo, vabbè, io, dai. Ce la fai. Però scusa, al punto perché è arrivato mo' io potevo fare quello a maggio. No, perché devono essere due i cosi, non può essere uno solo. A parte sennò la prima parte andava. Povera, hai chiesto se te va a fare il pazzo? Avrei voluto chiederglielo, ma quando sono arrivata, lei è arrivata mezz'ora dopo, quindi ormai mi ero chiesto di niente. Poi io vado a chiedermi di mattina, vado prima, sa che la dovrò arrivare di mattina, però di mattina la aspetto io chiedo. Sì, vedi se te lo fa fa, perché guarda, ti conviene. Non ti preoccupare, lo faccio tutti, li faccio tutti quanti, tutti insieme te li consegno, perché è importante. Dammi i nostri, ti mandami i nostri, sì, No, perché sennò ti conviene per l'esame, perché sennò poi prende fino a, soltanto fino a 12 punti, invece questo è pazzo e fino a 20. Domani si comincia a leggere l'educazione sociale. Chi è che non ce l'ha ancora? Buono, lo avrete detto nel tempo più rapido, e altrimenti senza assolutamente non arriva. Ciò detto, siccome domani comincio a leggerlo, però potete l'inizio dell'educazione sentimentale scaricare, quindi dopo questa indicazione precisa. Si va su Google, va bene, prendete nota, quindi lui non ha Google, non ha il computer, non ha la macchina da scrivere e ancora l'acqua da petrolio. A tutti. Dovete scrivere, dove c'è scritta la casella Google, cioè non sopra, dentro. Oh, dai, sì, mamma mia. Non farlo, perché voi siete molto più bravi. Guarda così. A-V-U minuscolo, punto, o C minuscolo, N come Napoli, A come Ancona, M come Milano, punto, FR, e basta. Francia. Tutto piccolo. Abu, punto, CNAM, punto, FRO. Leggerai il libro? Sì. A questo punto vi appare una pagina con scritto Bienvenue. Voi dovete andare sotto Bienvenue, ci sono alcune cose scritte in blu, di cui auteur vuol dire autore. Cliccate su auteur e vi appaiono gli autori francesi di cui sono conservati i libri. Fra cui vi appare Flaubert. Voi andate su Flaubert, una cosa che un bambino di 5 anni lo capisce. Vedete Educazione Sentimentale, cliccate. Quanto e vedete che c'è una certa parte iniziale, non so quanto sia, francamente, delle diversioni sentimentali. Questo dovete averlo per domani. Domani no, sì, per domani pomeriggio. Allora, poi, se intanto io arrivo lì, tutto vero. Chiaro? Tutto bene. Dovremmo andare. Anna Raida, ce l'ho. Lei ce l'ha tutto su internet, dagli indirizzi così tu manda senza far fissi. Ma c'è sta su Wikipedia, Vabbè, io ho dato prima mandato tutto, metti che non lo trovo, senza pure altre pagine. Vi annuncio che anche non ci sarà lezione il giorno 19, 19 che giorno è? Boh. Venerdì, no, venerdì c'è lezione. Giovedì. 19, 20, 21, 22. Non ci sarà lezione il 22 che recupereremo, va bene? Perché va a sciare. Il 22 quindi lunedì, quindi sì. Niente. Ah, oh, se ne andiamo a luna. Vabbè, dai. Hai visto? Hai visto? Non te lamenti. Io me ne vado a mezzogiorno. Abbiamo sopportato tanti dolori della vita, ci faremo una ragione. Io ne ho. Una ragione. Piangerò un po', in l'ora che insomma mi prendo per mio diletto personale, poi naturalmente la recupero al doppio. E certo, capisca di notto. Qui siamo per raccontare un episodio di grande significato, di grande importanza, che può essere naturalmente, si può aprire un pochino la finestra, as usual, grazie, benissimo, di grande importanza perché sta niente meno che alla base del romanzo che dobbiamo studiare. Si può trattare questo episodio in modo schematico, scheletrico, o cercare un pochino di approfondirne il senso, ma vale la pena perderci del tempo, un pochino. La famiglia di Flaubert, come vi ho detto, è una famiglia borghese, una famiglia quindi che si fa la sua villeggiatura. Voi sapete che dal Settecento in poi le famiglie ricche, in particolare le famiglie borghesi, andavano in villeggiatura, no? Nell'Ottocento era abbastanza abituale e andavano al mare. Nella fattispecie la famiglia, parenti, amici, tutti quanti, il denaro non gli mancava, andarono a Trouville, Trouville che è sulla costa normanna. Andarono a Trouville e il ragazzo stava lì, aveva poche compagnie in realtà, perché come ricorderete il fratello maggiore certamente non è che poteva stare con lui, giocare con lui, erano dei anni di più. Forse non vi ho ancora detto che il fratello maggiore divenne chirurgo come il padre, cioè medicina come il padre, c'era la sorellina. Ma lì lui, camminando un giorno sulla spiaggia, su questa bellissima spiaggia che dobbiamo immaginare incorrotta e quasi deserta, immaginate una spiaggia di allora, ci sono fotografie d'epoca che mostrano come si svolgeva la vita dei ricchi villeggianti allora, vede una ragazza che viene in senso. Opposto. Questa ragazza per la verità non è una ragazza sua coeva, è assai più grande di lui, è assai più grande di lui, perché lui ha 15 anni e la ragazza, assai più grande di lui, insomma, e voi sapete che alla vostra età le differenze di anni fanno moltissimo. Lei quanti anni ha, per esempio? 20, ecco. Adesso se io le facessi una domanda di questo genere qua, lei si metterebbe insieme a un 15enne? Ma insieme a un 25enne? Sì. Lei in condizioni analoghe, eh? Cioè a un 15enne no. Quindi che gap ci può essere tra un 15enne e una 26enne per di più sposata? Enorme, evidentemente. Cioè la 26enne non lo guarda proprio il 15enne, no? Non lo guarda proprio. E questa giovane signora bella era la moglie di un certo signor Schlesinger, ricordare tutti questi nomi molto bene, naturalmente. Sapete che voi avete fatto una parte della scuola con dei professori giovani che parlavano contro il nozionismo. Lo sapete, no? Ah, non c'è un esame nozionistico. Bene, il professor Guarando vuole le nozioni. È chiaro che vuole i nomi. Quando sento qualcuno che mi dice non me lo so, non me lo ricordo più, io dico, ma il nome della sua fidanzata lo ricorda? Sì. Di papà e di mamma lo ricorda? Sì. Perché? Perché loro mi interessano. Brava, allora cerchi di interessarsi al nome. Scelta. Dunque, la signora va in un certo senso, però fa un gesto apparentemente sconveniente, ma in realtà nella dolce logica materna. Che succede? A vuole entrare in diretto. Nella dolce logica materna. Perché si scopre, e immaginate come poteva essere vestita con una vestaglietta, immaginiamo, i costumi che da bagno erano naturalmente diversi. Si scopre la tetta per fare poppare il bimbino che ha al seno. E immaginate cosa poteva essere per questo ragazzo una donna bella di tanti anni più di lui, perché io mi ricordo molto bene quando avevo 15-16 anni e cercavo furiosamente di concupire una ventunenne, e erano dolori e sofferenze terrificanti. Andavo, allora c'erano i gettoni del telefono a scuola, andavo a mettere il gettone del telefono perché lei lavorava alla SIP, Telecom, e quindi quando lei rispondeva io avevo la possibilità, una su 100, di sentire la sua voce, e poi non avrei osato, non avrei osato naturalmente dir più di tanto, ma una volta che rispose, comunque era una delizia. È un peccato che poi queste meraviglie dell'amore rimangano ristrette a certe età. No, perché se arrivando all'età maggiore, matura, uno facesse una cosa di questo genere, insomma, sarebbe deliziosamente anacronistico. Il seno nudo, ma è qui la cosa complessa. Fu un fatto meramente sessuale, perché il corpo nudo della donna, poi a quei tempi, naturalmente, in un ragazzo, in un maschio, la cosa poteva essere altamente exciting. È un complesso di cose, è un complesso di cose che ha a che fare con il sesso, evidentemente, ma anche con la maternità, con la vita che nasce. Il tutto turbò moltissimo, profondamente, Gustav. E dovete sapere che questo non si entra nella lezione, non si entra nella lezione. Vada. Questo fatto lo turbò in un modo stranissimo. Divenne quella ragazza come il segno del desiderio impossibile. In fondo, diceva Oscar Wilde, che era, come sapete, un facitore di battute, di paradossi, diceva: c'è una sola disgrazia della vita superiore a quella di non esaudire i propri desideri, ed è quella di esaudirli. Questa donna non ebbe mai rapporti con lui. La frequentò, ma si frequentarono con la differenza di età, naturalmente, che c'era, che era nei fatti, e soprattutto con una sorta di distanza interiore che lui sentiva di dover mantenere da questa signora, che è anche per di più sposata. Era la moglie di un editore di cose di musica. La vide nel corso di 40 anni praticamente, ma la vide sempre a poco. E lei non seppe mai, credo che non seppe mai, di essere stata così decisiva nella vita di Flaubert. Era l'emblema dell'amore puro, dell'amore assoluto. Quando noi pensiamo all'amore puro, pensiamo a un amore che non sia stato, come dire, sporcato dalla pratica della vita comune. Qual è, insomma, la ragione che tutti quanti ben conoscete, anche alla vostra più tenera età? Qual è la ragione della tragedia cosmica che è il matrimonio, no? Quanti matrimoni vanno bene su 10? Ne parlavo con un medico recentemente, uno che si occupa di questo tipo di cose, e mi diceva: su 10 matrimoni, nessuno. Come nessuno, dottore? Io ho detto: cosa di musica io scrivo, editore? Ci sono le separazioni, naturalmente, che si agiscono alla fine, e poi ci sono dei matrimoni che vivot, direi io, che vivacchiano. Oppure vi sono separazioni in casa, eccetera. Ma questo perché? Per la corruzione particolare della natura umana? No, affatto. Perché nessuno può amare la stessa persona, almeno con l'intensità di prima, per troppo tempo. Nessuno può amare lo stesso quadro, lo stesso libro, e figuriamoci una persona che ha tutta la sua reattività psicologica. Quindi tenere l'amore al riparo da noi stessi è importantissimo. Sono allieve, cioè una letteratura, che hanno amato il loro professore, ma naturalmente non hanno potuto concludere nulla. Sono stati grandi, veri amori. Per contro, i professori Mascalzone, che sono andati con delle studentesse, facendo l'errore spaventoso di credere che la distanza di età non fosse significativa, hanno visto come sempre le storie che più o meno squalli, tenere. L'amore bisogna custodirlo. Naturalmente ci sono degli svantaggi. Uno è il fatto che non lo vivi, non ne hai la bellezza. Ami, come dire, puoi amare il titolo dell'amore, ma non l'amore in se stesso. E due, questa forse è la sventura più interessante, è che l'amore si nevrotizza, diventa una fissazione, diventa un qualcosa che può anche impedirti di avere rapporti reali con altre persone, perché è un tarlo fisso. Questo è l'inconveniente, la vera negatività degli amori non vissuti, insomma. Comunque dovete sapere che al centro del romanzo che noi vediamo c'è la più mirabile storia mai narrata in letteratura di un amore non vissuto, di un amore non vissuto. Flaubert, aggiungo, riteneva questo. Flaubert ha scritto tre romanzi, diciamo così: Madame Bovary, L'Educazione Sentimentale e Salomè. Di questi tre romanzi, uno vale poco, gli altri due sono soli, la Bovary e L'Educazione Sentimentale. Ma Flaubert diceva che l'educazione era il suo capolavoro. Era il suo capolavoro, e avete spento tutti i vostri cellulari, sì, ecco bene. E che aveva, ascoltate bene, delle finezze che non potevano capirsi al momento in cui il libro veniva pubblicato, cioè nel 69, che si sarebbero capite molto dopo. E questo è assolutamente. Alla ricerca delle finezze dell'educazione, ho letto questo libro circa 240 anni fa, quindi molto precedentemente alla sua scrittura, no? Mi ricordo, posso dirvi un piccolo dettaglio personale, come spesso vi dico, che l'ho letto a letto perché avevo l'influenza. Avevo 14 anni, a 14 anni io ero un lettore che avevo letto Gli Ben di Dio, avevo letto tutto Dostoevskij, avevo letto Mille, avevo fatto pellegrinaggi culturali. Insomma, questo libro, forse perché finito al sciroppo per la tosse che mia madre mi dava, mi sembrava un'enorme edizione in francese, e mi sembrava di una noia terribile. Allora volevo dirvi questo, che questa è una sensazione che potreste avere anche voi. Potreste avere anche voi per un motivo molto semplice. Perché, a differenza del quattordicenne che era allora coltissimo, voi siete persone che non sapete nulla, tanto per colpa vostra, per una colpa generazionale. Perché le scuole non ci sono più, perché la situazione è quella che è, sostanzialmente. Avete letto uno, letteratura che oggi si manda avanti, eccetera, di cui ti dico non comprarla mai. Merda, tu. Premio strega, merda. Ma questa è la parola che deve scattare immediatamente. Ma è nei best seller, merda. È abbastanza semplice anche. Va in televisione subito. Qualunque autore, ma qualunque. Fammi una domanda. È per sbaglio. Che allora, sbaglio, che se mai succede che qualcuno... Quando mi dica un po', qualunque... No, vabbè, qualunque, no, dai. È una legge. Vabbè, qualcuno ci va per sbaglio, forse. Kubrick, per esempio, cioè qualcuno è famoso, però c'è, c'è pure qualche quadrilatore. Così, per dirne uno. Certo, Kubrick, tu mi qui stiamo parlando di autori, perché il problema è che la letteratura, comunque non si interrompe, la letteratura è impossibile, non questo è il punto. Questo occuperebbe un bel discorso che potremmo fare in altra sede. Quando avrete questa sensazione di annoiarvi, pensate che ve l'ho detto in anticipo, e pensate che una delle ragioni è questa. Perché il libro è lentissimo. Poi pensate a una seconda ragione. Perché, e questo può invece affascinare la vostra fantasia di moderni, perché il libro realizza un ideale puro e difficilissimo anche da pensare, perché nel libro non succede niente. E i fatterelli che succedono sono lì per significare il nulla di una vita. Nella vita non succede niente. Eppure, arrivati alla fine di una vita, quando si fanno, quando avvengono i bilanci, sembra al tempo stesso che molte cose siano successe, ma che nulla al tempo stesso sia successo. Io sono il bambino di una volta. Uno piange con gli occhi di una volta, è stato scritto, con gli occhi che aveva quando era bambino. L'amore assoluto non esiste, eppure l'amore assoluto è perseguito da tutti. Servotte, veline o muratori analfabeti, tutti perseguono il mito dell'amore assoluto, naturalmente con consapevolezza maggiore o minore. Flaubert scrisse un racconto che non fa parte del nostro discorso, ma cui dobbiamo accennare. Questo racconto, romanzo breve che dir si voglia, si intitola Novembre. Fu scritto tra il 40 e il 43, cioè poco prima dell'inizio della prima educazione sentimentale, la quale occupa gli anni. Lei prende appunti? No. Perché no? Vabbè, voi che sei. Gli appunti non servono? No, sento io. Sento così. Ma come li fanno così? Io li boccio normalmente. No. Mi ricordo c'era un ragazzo lo scorso anno della specialista che diceva, ma di dov'è non prende appunti? Me lo diceva anche con un'aria dolorosa, direi eratica, sacrata, come un sacerdote che fosse stato interrotto nella sua meditazione. Ti dico anche che possono essere utili in qualche modo. Si presentò all'esame. Dico, ma lei non sa nulla. Ah, è vero. Prese atto in modo ieratico del fatto che non si sa. Ecco, e quindi mi facciato qui. Io ti consiglio. No. Comunque, insomma, qua che sì, cosa stavo dicendo? La prima domanda. Non stavo seguendo? Madonna, uno non prende appunti, l'altra non segue, è una strage. A lei sta semplicemente qui per perseguire lei, capito? Che questo campione di umanità mi sembra abbastanza raggelato. Intanto però ho perso il filo. La prima è novembre. Ecco. In questi tre anni scrive Novembre. Novembre è una storia bellissima ed è di un'ingenuità straordinaria. Vorrei che su questo concetto di ingenuità ci mettessimo un po' d'accordo. Sapete, molte cose sembrano ingenue a noi che siamo moderni, ma allora non sembravano tanto ingenui. Ecco il punto. Cioè, l'ingenuità è un sentimento, per così dire, è un atteggiamento relativo, no? Le cose dell'Iliade e dell'Odissea sembrano ingenue, eppure sono tra i capolavori dell'umanità. Cosa c'è di ingenuo? Cioè che una donna è corrotta. Già oggi dire una donna corrotta fa un po' ridere, no? Ma chi è corrotta? Patrizia D'Addario? Chi è corrotta? No, ma quali sono le donne non corrotte? Ma poi avrebbe senso porsi questo problema, no? Avrebbe senso, me lo dico, lei sta seguendo. Oh, per Dio! Allora, ha senso, lei è corrotta? No, no. Si riflette invece, così è interessante. Lei non si ritiene corrotta? Cioè, se uno per esempio le dice, senti un po', io ti voglio... Scusate, posso parlare? Senti un po', io ho esaminato la tua esistenza. Ecco, ti vorrei dire una cosa, però non devi offenderti. No, no, aspetta, la persona non ha finito. Tu mi sembri un po' mignotta. Lei si offende o no? Risponderei a modo, ma non mi offenderei. Non si offenderei. Ma se l'altra dice, guarda che io ti dico una cosa del genere perché ho delle prove documentali. Vediamo le prove, io sostengo di non essere. Molto bene, questo è un atteggiamento molto razionale e civile. Se lei vedesse che invece queste prove sono... però a te allora diciamo, sono d'accordo sul mio punto di vista. Però voglio dire, il concetto stesso di donna corrotta fa un po' ridere oggigiorno. Non ai tempi romani. Non ai tempi romantici, in cui invece la donna doveva essere pura negli ideali, e l'uomo, questo è un topos che si ripete spesso nella storia della letteratura, pensate, lo troviamo ancora nel Novecento in uno scrittore come Cesare Pavese, no? A distanza di 100 anni, in bei racconti di notte in testa si chiamava questa racconta. Non so se qualcuno di voi conosce Pavese, chi lo conosce? Cesare Pavese? Qualcuno, non le mani da paraplegico, su, io conosco, notte di festa del 36 sono i racconti in cui c'è l'uomo buono, no, che cerca di tirare via la donna corrotta dalle sue debosce, notte di festa, ecco. Ma andando indietro, Charles-Louis Philippe, poniamo, è un autore che tratta di dire di questo genere, ci riesce l'uomo a tirar fuori la donna dalle sue dissolutezze? Ci riesce? No, no, perché la donna dice, oh, ma le mie dissolutezze sono molto meglio della vita che tu mi proponi. Questo è il punto. E naturalmente tutto questo in una visione romantica sembra tragica, no? Perché è come la consacrazione del fallimento dell'assoluto. È chiaro? Benissimo. Che cosa tratta novembre o novembre, esattamente? Che cosa tratta? Tratta appunto di questo amore infelice, solo questo, di questo amore infelice che si conclude con un fallimento proprio perché la donna non rinuncia alle sue dissolutezze. Poco dopo, nel 43, inizia, c'è la prima edizione, prima versione, dell'Educazione Sentimentale. Di che cosa tratta l'educazione sentimentale? Numero uno. Tratta di cose completamente diverse da quella di cui tratta la seconda. E in particolare vediamo di che cosa tratta. La seconda occupa 5 anni, dal 64, quello che noi consideriamo, dal 64 al 69. Ma la prima tratta una storia di questo genere. Ci sono due amici. Questi due amici sono come i due alter ego di Flaubert, per così dire. Sono le due parti, i due spicchi della personalità di Flaubert. Uno studia legge, a un certo punto diventa l'amante della padrona della pensione. Pensate come tutto questo è molto verosimile, perché queste padrone di pensioni che ospitavano studenti, in realtà non attendevano di meglio nelle loro insoddisfazioni coniugali la padrona di pensione. Immaginate chi è il marito, che vita fa, eccetera, eccetera. Arriva un bel ragazzo giovane e loro perdono la testa per il bel ragazzo. Il bel ragazzo, d'altra parte, questa è una cosa tipicamente ottocentesca, pensa di poter salire nella scala sociale attraverso i soldi della donna. E così lì avviene. Perché lo studente di legge scappa con lei addirittura in America e poi però la relazione finisce, lui ha un matrimonio ricco. Questo tipo di destino, il matrimonio ricco, è un destino che ai romantici non piaceva punto, perché era un destino volgare. Aggiungo che in tutto il corso del romanticismo la ricchezza è sentita come volgare. La ricchezza naturalmente rischia di essere sempre volgare, questo è ovvio, ma nel romanticismo c'è proprio una specie di categorizzazione. E non solo i ricchi, come direbbe il Vangelo, non entreranno, è più facile per un ricco, per un cammello entrare nella cruna di un ago che per un ricco entrare nel regno dei cieli. Questo mi preoccupa un po' sulla sorte del nostro presidente del Consiglio, io sono stato così inquieto della salute del presidente del Consiglio nostro. Ma i borghesi, negli romantici, lo sentono sempre come segno di volgarità. L'amico, invece, fa una vita completamente diversa. L'amico si muove nell'ambiente del teatro, non ha altre ambizioni che quelle artistiche, diventa l'amante di una attrice e, diciamo così, si consuma nella ricerca dell'opera d'arte. È come se Flaubert dicesse con questa riflessione sentimentale, uno, come si dicesse, ecco due diversi destini. Uno, un destino romantico, quello che rimane poveraccio ma ha lavoro. L'altro, invece, un destino molto triviale, no? Vi voglio ricordare che c'è un libro molto bello che parla dei destini diversi dei giovani, quelli che scelgono i matrimoni ricchi e quelli che scelgono invece una vita più profonda dell'animo. Ed è un libro di Balzac, un libro anche breve di Balzac che vi consiglio di leggere, di andare a vedere, perché vale veramente la pena, e sono i Memoir, un romanzo, de jeunes mariés, memorie di due giovani sposi. Questo per dirvi che, come spesso avviene in letteratura, le storie sono dei topoi, sono degli schemi. Qui abbiamo per l'appunto due amici, questi amici hanno un destino, si chiama Henri, lo studente di diritto, e Jules invece, per così dire, quello d'artista, quello uomo, insomma, no? Ma notate come la distinzione fra questi due personaggi mostra in Flaubert ancora una fede, cioè uno dei due vince, capite? Mi segue lei? Mi segue? Sta seguendo? C'è un ragazzo che è lì dietro. Lei sta seguendo. Chi è che vince dei due? L'artista o chi fa il matrimonio ricco? Dal punto di vista, dal punto di vista di Flaubert. No, dal punto di vista europeo vince l'altro, invece. Vince l'altro perché l'altro ha seguito una vocazione più solida, più importante. Nell'educazione nuova, quella che noi consideriamo, invece non c'è più una fiducia nel bene o nel male, in chi vince o in chi perde. La dicotomia, i due personaggi, non ci sono più. è vero che ci sono due amici, uno studia diritto, Delorier, e l'altro si occupa di lettere, semplicemente. Però tutti e due perdono. Tutti e due perdono. Perché perdono tutti e due? Perché il crollo dell'individuo, nella visione che ha ormai elaborato Flaubert, non è mai un crollo che riguarda solo la sua singola persona. È il crollo di una generazione. Questo è molto significativo, molto interessante. La vostra generazione, per esempio, ogni generazione a suo modo è una generazione perduta, come si dice, una lost generation. Ma la vostra generazione è perduta, diciamo così, tra virgolette, per motivi molto precisi. Perché voi venite fuori, sostanzialmente, venite rinati dopo le ideologie del XX secolo, che sono crollate tutte, fascismo, nazismo, comunismo, ma è crollato anche il mito di un benessere illimitato, voi vi trovate in una situazione di raggelante precarietà. Quindi, se uno fallisce, non può e non deve attribuire solo a se stesso la colpa, anche a se stesso, ma anche al fatto che vive in un certo tempo, che vive con questa televisione, che vive con questa politica. Cioè il fallimento o la buona sorte di un uomo è un fatto storico, è un fatto collettivo. Questo è quello su cui insiste Flaubert. Torniamoci qui. Continuiamo. Grazie. Che coglioni, c'è un sacco di buchi oggi. Tutte le date, cose, non c'è caso di interesse. Quanto hai pagato il quaderno? Portaccio, io da cinese 80 centesimi alla Raita. Portaccio. Ma ho comprato in nonna. Settembre. Ottobre, là, quando sono venuta. Ancora una pratica, no? Quali ho fame. Ah, allora, c'è però. Io mi devo tutti i libri. Ma quasi a 10, ma non le mail.